23° canto dell'Inferno. Dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Registrazione di pubblico dominio effettuata per LibriVox da Filippo Gioachin. Inferno. 23° canto. Taciti, soli, senza compagnia n'andavam, l'un dianzi e l'altro dopo, come frati minor vanno per via. Voltera in su la favola d'Isopo, lo mio pensier per la presente rissa, dov'el parlò della rana e del topo, che più non si pareggia mo e issa, che l'un con l'altro fa, se ben s'accoppia, principio e fine con la mente fissa. E come l'un pensier dell'altro scoppia, così nacque di quello un altro poi, che la prima paura mi fe doppia. Io pensava così. Questi per noi sono scherniti con danno e con beffa sì fatta, ch'assai credo che lor noi, se l'ira sovra il mal voler s'agguffa, ei ne verranno dietro più crudeli che il cane a quella lievre che li acceffa. Già mi sentia tutti arricciar li peli della paura e stava indietro intento, quand'io dissi: maestro, se non celi te e me tostamente, io pavento di male branche, noi li avem già dietro, li immagino sì che già li sento. E quei, sì fossi di piombato vetro, l'imagine di fuor tua non trarrei più tosto a me che quella dentro in petro. Pur mo venieno i tuo pensier tra i miei, con simile atto e con simile faccia, sì che d'intrambi un sol consiglio fei. S'elli è che sì la destra costa giaccia, che noi possiam nell'altra bolgia scendere, noi fuggirem l'immaginata caccia. Già non compiedi tal consiglio rendere, ch'io li vidi venir con l'ali tese, non molto lungi, per volerne prendere. Lo duca mio di subito mi prese, come la madre ch'al rumore è desta, e vede presso a sé le fiamme accese, che prende il figlio e fugge e non s'arresta, avendo più di lui che di sé cura, tanto che solo una camicia vesta. E giù dal collo della ripa dura supin si diede alla pendente roccia, che l'un de lati all'altra bolgia tura. Non corse mai sì tosto acqua per doccia a volger ruota di molin terragno, quand'ella più verso le pale approccia, come il maestro mio per quel vivagno, portandosene me sovra il suo petto, come suo figlio, non come compagno. Appena fuoro i piè suoi giunti al letto del fondo giù, che furon in sul colle sovresso noi, ma non lì era sospetto, che l'alta provvidenza che lor volle porre ministri della fossa quinta, poder dipartir s'indi a tutti tolle. Là giù trovammo una gente dipinta che giva intorno assai con lenti passi, piangendo e nel sembiante stanca e vinta. Elli avean cappe con cappucci bassi dinanzi agli occhi, fatte della taglia che inclugnì per li monaci fassi. Di fuor dorate son sì che li abbaglia, ma dentro tutte piombo e gravi tanto che Federigo le mettea di paglia. O in eterno faticoso manto, noi ci volgemmo ancor pur a man manca con loro insieme, intenti al tristo pianto, ma per lo peso quella gente stanca venia sì pian che noi eravam nuovi di compagnia ad ogne mover d'anca. Perch'io al duca mio fa che tu trovi alcun ch'al fatto o al nome si conosca, e gli occhi sì andando intorno movi. E un che intese la parola tosca, di retro a noi gridò: tenete i piedi, voi che correte sì per l'aura fosca, forse ch'avrai da me quel che tu chiedi. Onde il duca si volse e disse: aspetta, e poi secondo il suo passo procedi. Ristetti, e vidi due mostrar gran fretta dell'animo col viso d'esser meco, ma tardavali il carco e la via stretta. Quando fuor giunti, assai con l'occhio bieco mi rimiraron senza far parola. Poi si volsero in sé e dicean seco: costui par vivo a latto della gola. E se son morti, per qual privilegio vanno scoperti della grave stola? Poi disser me: o tosco, ch'al collegio dell'ipocriti tristi sei venuto, dir chi tu sè non avere in dispregio. E io a loro: i fui nato e cresciuto sovra il bel fiume d'Arno alla gran villa, e son col corpo ch'io ho sempre avuto. Ma voi chi siete, a cui tanto distilla quant'i veggio dolor giù per le guance? E che pena è in voi che si sfavilla? E l'un rispose a me: le cappe rance son di piombo sì grosse che li pesi fan così cigolar le lor bilance. Frati codenti fummo e bolognesi, io catalano e questi Loderingo nomati, e da tua terra insieme presi, come suole esser tolto un uom solingo per conservar sua pace. E fummo tali ch'ancor si pare intorno dal Gardingo. Io cominciai: o frati, i vostri mali! Ma più non dissi, ch'a l'occhio mi corse un crucifisso in terra con tre pali. Quando mi vide, tutto si distorse, soffiando nella barba con sospiri. E il frate catalan, ch'a ciò s'accorse, mi disse: quel confitto che tu miri consigliò i farisei che convenia porre un uom per lo popolo a martiri. Attraversato è nudo nella via, come tu vedi, ed è mestier ch'el senta qualunque passa come pesa pria. E a tal modo il socero si stenta in questa fossa, e gli altri dal concilio che fu per li giudei mala sementa. Allor vid'io maravigliar Virgilio sovra colui ch'era disteso in croce tanto vilmente nell'etterno essilio. Poscia drizzò al frate cotal voce: non vi dispiaccia, se vi lece, dirci s'a la man destra giace alcuna foce, onde noi amendue possiamo uscirci, senza costrigner degli angeli neri che vegnan d'esto fondo a dipartirci. Rispuose adunque: più che tu non speri, s'appressa un sasso che dalla gran cerchia si move e varca tutti i vallon feri, salvo che in questo è rotto e nol coperchia. Montar potrete su per la ruina che giace in costa e nel fondo soperchia. Lo duca stette un poco a testa china, poi disse: mal contava la bisogna colui che i peccator di qua uncina. E il frate: io udii già dire a Bologna del diavol vizi assai, tra i quali udii ch'egli è bugiardo e padre di menzogna. Appresso il duca a gran passi sen gì, turbato un poco d'ira nel sembiante, ond'io dall'incarcati mi partii. dietro alle poste delle care piante. Fine del 23° canto dell'Inferno.